Do il buongiorno al ministro degli esteri Franco Frattini. Le chiedo, 7 anni dopo, secondo lei il mondo è più sicuro sul fronte della lotta al terrorismo internazionale? Ma certamente c'è maggiore consapevolezza dei governi, degli stati e anche delle opinioni pubbliche dei paesi democratici di tutto il mondo che il terrorismo resta ancora, direi, la minaccia numero uno per le nostre democrazie, per la nostra convivenza. Quindi maggiori misure sono state adottate, più cooperazione è in funzione a livello internazionale, certamente grandi risultati sono stati ottenuti con lo smantellamento di cellule del terrorismo e di reti del terrorismo, anche qui in Europa, dobbiamo dirlo con grande chiarezza. Questo però dimostra una penetrazione del terrorismo di cui noi forse 7 anni fa non avevamo la consapevolezza, quindi più consapevolezza ma anche del rischio che incombe su di noi. L'immagine forte che qualcuno potrebbe dire è che comunque tra pochi mesi il presidente americano Bush lascerà la Casa Bianca mentre Osama Bin Laden è ancora libero. Forse è riduttivo ridurre tutte queste due immagini, però fa anche impressione. Fa molta impressione, certamente sì, ma se Osama Bin Laden è ancora lì, molti capi del terrorismo internazionale sono stati arrestati, sono stati colpiti, molte cellule smantellate. Devo dire che quello che il presidente Bush ha fatto durante il suo doppio mandato è stata una grande strategia di lotta al terrorismo a cui l'Italia ha sempre convintamente partecipato.